Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti per Radio Zanardi di questo martedì 10 dicembre. Come sempre più tardi leggeremo i giornali, tra una mezz'oretta, ma subito Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno ad ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati anche per oggi martedì 10 dicembre 2019 con il web notiziario di Radio Bullets, un podcast di notizie dal mondo, oggi dedicato alle notizie che arrivano dall'Africa e dall'Europa. Cominciamo come di consueto dall'Africa, cominciamo questa volta con la Nigeria, dove non si spengono né le polemiche né le accuse dopo il nuovo arresto di Omoyele Sowore, il giornalista di Sahara Reporter, che era stato liberato giovedì sera e subito riarrestato venerdì in tribunale stesso al termine dell'udienza e dell'invio del suo processo. Le modalità con cui è avvenuto l'arresto, con gli agenti dei servizi segreti entrati a viso coperto, vestiti di nero armati, hanno provocato indignazione e, da parte degli avvocati di Sowore, anche una denuncia. La giudice che presiedeva l'udienza è stata esfiltrata dall'aula per evitare che venisse ferita nella concitazione. Il portavoce del Dipartimento dei Servizi Speciali del Governo, Peter Afunia, ha negato che i suoi agenti siano entrati in tribunale per arrestare Sowore, parlando di una sceneggiata orchestrata da quest'ultimo. La Corte Penale Internazionale deciderà oggi se mandare a processo i due capi degli anti-Balaka, la milizia cristiana della Repubblica Centroafricana, accusati di crimini contro l'umanità per le azioni compiute da loro nel quartiere musulmano della capitale Bangui, la PK5, nel corso dei numerosi anni di guerra civile scoppiata a partire dal 2013. E si apre invece il 12 dicembre al Tribunale di Nanterre, in Francia, il processo contro la società Total per le sue operazioni in Uganda. Il processo, nato su denuncia della ONG Amis de la Terre e di Survie, nonché di altre organizzazioni non governative ugandesi, si basa su una recente legge francese, quella del dovere di vigilanza, ed è il primo di questo genere. La legge, entrata in vigore nel marzo 2017, prevede che una società sia responsabile di tutte le sue attività anche all'estero e sia responsabile anche del comportamento dei suoi appaltatori. Nel caso in questione, la denuncia di inadempienza al dovere di vigilanza nasce dalle attività connesse a un megaprogetto petrolifero nella regione dei Grandi Laghi. Repubblica Democratica del Congo, il Consiglio dell'Unione Europea ha deciso ieri di continuare a sostenere il programma di riforme del nuovo governo, mantenendo però le sanzioni individuali verso alcune persone. Per due di loro però sono state tolte a beneficiare della misura e anche Lambert Mende, l'ex portavoce di Joseph Kabila. Latest information reaching my office states that 60 people are now confirmed dead. My heartfelt condolences go to the bereaved families. Ha aspettato sabato Adama Barrow, presidente del Gambia, per deplorare la morte dei 60 cittadini gambiani morti mercoledì scorso nel naufragio della loro imbarcazione al largo delle coste della Mauritania. Perdere 60 giovani vite in mare è una tragedia nazionale e una grave preoccupazione per il mio governo, ha detto Barrow, aggiungendo che era stata avviata un'indagine di polizia sull'immigrazione irregolare. La nave su cui viaggiavano i migranti aveva a bordo più di 150 persone. I 109 superstiti sono tuttora in Mauritania e saranno rimpatriati a tempo debito, ha detto ancora il presidente. Tra il 2014 e il 2018 sono circa 35.000 le persone emigrate in Europa dal Gambia, secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per la Migrazione. Da 15.000 soldati a soli 5.000, questa è la riduzione delle truppe sudanesi nello Yemen, comunicata domenica dal premier Abdullah Hamdok, che per la prima volta ha fornito dei numeri concreti sull'impegno del suo paese nella coalizione a guida saudita che opera in Yemen. La partecipazione dei soldati sudanesi era stata decisa dall'ex presidente Omar Bashir. Prenez par exemple les États-Unis, première puissance mondiale. Le président Donald Trump a pour principaux collaborateurs sa fille, Ivanka Trump, et son neveu, Jared Kushner, tous deux occupant des fonctions officielles importantes à la Maison-Blanche. Se lo fa il presidente americano, perché non potrebbe farlo il presidente del Gabon? Così, con questo paragone, il nuovo portavoce della presidenza gabonese, Jesse Ella Ekoga, ha spiegato la nomina di Noureddin Bongo Valentin, figlio del presidente Ali Bongo Ondimba, che dal 5 dicembre ricopre l'incarico di coordinatore generale degli affari presidenziali, per assistere il Presidente della Repubblica nella conduzione di tutti gli affari dello Stato. La famiglia Bongo governa il Gabon dal 1967. Angola, ha iniziato ieri a Luanda il processo per corruzione in cui è imputato il figlio dell'ex presidente del paese, José Filomeno dos Santos. È la prima volta che un membro della famiglia dos Santos finisce in tribunale. L'accusa riguarda il trasferimento illecito di 500 milioni di dollari dalla Banca Centrale dell'Angola verso il conto londinese del Credit Suisse, il tutto all'interno di una frode più vasta che avrebbe portato all'appropriazione indebita di 1,5 miliardi di dollari. Madagascar, la capitale Antananarivo, avrà un nuovo sindaco, non più dell'opposizione, ma vicino al presidente Rajoelina. Sabato la Commissione Elettorale Nazionale ha pubblicato i risultati provvisori che confermano la vittoria di Naina Adriansito Aina, che ha superato di circa 6.000 voti il suo principale avversario Rina Randriamasinoro, il candidato del movimento Tiako I Madagasikara. I risultati definitivi arriveranno domani, da allora ci sarà tempo fino al 16 gennaio per presentare eventuale ricorso. Europa, Francia continua la mobilitazione contro la riforma delle pensioni, che oggi conoscerà un nuovo picco di manifestazioni, in attesa che domani pomeriggio, mercoledì, il premier Edouard Philippe sveli il testo completo della sua proposta di riforma. Tra i più agguerriti oppositori ci sono in questo momento i poliziotti, cui tre principali sindacati hanno avvertito che potrebbero arrivare a una paralisi totale delle attività se entro mercoledì il governo non intenderà le loro ragioni. Philippe Capon, segretario dell'UNSA Police, spiega che se le cose continuano così, bloccheranno gli aeroporti con il loro eccesso di zelo o si daranno tutti malati. Sulla fronte trasporti, al sesto giorno di sciopero, si conta un'adesione ancora molto alta. A Parigi oggi saranno ferme 10 linee della metro e circoleranno solo il 20% dei TGV. Negli aeroporti un quarto dei voli sarà annullato, mentre nei porti navali il sindacato ha chiesto uno sciopero di 24 ore sia per domani sia per giovedì. There are no healthy populations left in Irish waters. Standing strong, standing strong, my rightful place, in my rightful place. Irlanda, pochi manifestanti ma tanta scenografia nella mobilitazione indetta dalle associazioni ambientaliste per chiedere al ministro della pesca di accettare le raccomandazioni dell'Unione Europea ponendo un limite alla pesca eccessiva. In abiti da sirene, con canti e slogan, gli attivisti di Irish Wildlife e di Extinction Rebellion hanno protestato davanti al Parlamento di Dublino. Extinction! Spagna, ancora una prova di forza di Ryanair, che manterrà la sua base di Girona, ma che in cambio di questo ha chiesto ai lavoratori di rinunciare a buona parte dei loro diritti. Il sindacato, che è stato scavalcato nella trattativa, vuole ora sapere dall'ispettorato del lavoro se tutto questo è legale. Nella sostanza, i lavoratori hanno dovuto firmare un accordo con il quale rinunciano alla loro indennità di anzianità, al contratto a tempo indeterminato e alla qualifica, che passa dall'essere equipaggio di cabina a servizio clienti. In caso di mancato accordo, la società irlandese aveva annunciato il licenziamento in massa. I lavoratori, che erano stati informati di una possibile chiusura il 28 novembre, hanno avuto solo una settimana per decidere se accettare o meno l'accordo. Ai pochi che si sono rifiutati, l'azienda ha comunicato il licenziamento a partire dal prossimo 8 gennaio. La classifica dei maggiori venditori di armi al mondo, stilata come ogni anno dalla SIPRI, l'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma, vede nell'edizione 2019 tutte società americane nei primi 5 posti, ma nella classifica dei maggiori 100 venditori spiccano come di consueto le società europee, francesi, britanniche, tedesche in primo piano, con l'inglese Bae System, che risulta essere il più grande produttore di armi al mondo al di fuori degli Stati Uniti. Al secondo posto tra gli europei c'è la Francia, seguita dalla Germania. Il link al database del SIPRI lo trovate sul nostro sito. Budapest, migliaia in piazza ieri contro la proposta di legge del governo ungherese che di fatto stabilirebbe un controllo politico sulla vita culturale. Nella centrale piazza Madach si sono ritrovati decine di protagonisti del teatro, l'istituzione che verrebbe direttamente interessata dalla nuova normativa. Dal palco è stata letta la lettera dei 111 attori under 30, mentre si susseguivano le performance dei volti noti dello spettacolo. Alla protesta ha partecipato anche il sindaco della città, che ha ricordato come la cultura non appartenga ai politici, ma al pubblico, dunque ai cittadini. Nelle scorse settimane una petizione per chiedere il ritiro della legge aveva raccolto oltre 50.000 firme. La legge, in una versione comunque ammorbidita rispetto alla prima, verrà votata domani. Repubblica Ceca, il sindaco di Praga è stato sfiduciato dalla coalizione di partiti che sostiene il suo governo. Zdeněk Rybl del partito pirata è accusato di non rispettare il programma comune concordato e di interessarsi ad argomenti che non riguardano direttamente la città, ha detto il leader della coalizione Top 09, Popsil, che lo ha sfiduciato. Tuttavia la sfiducia nei confronti del sindaco non dovrebbe tramutarsi in una rottura della coalizione di governo. Rib è stato eletto nel novembre 2018 ed è il primo sindaco di una capitale europea a provenire dalle fila del partito pirata. Svezia, la scorsa settimana, il 5 dicembre, è stata pronunciata la prima condanna per sfruttamento umano, reato introdotto nel codice lo scorso anno e che prevede fino a 4 anni di carcere per chiunque sfrutti una persona in lavori forzati, lavori in condizioni evidentemente irragionevoli oppure lavoro gratuito. Il caso in questione riguardava una coppia del Bangladesh che aveva lavorato per mesi in un pub di Norrköping senza mai ricevere lo stipendio, con turni di lavoro di 11 o 12 ore al giorno. Alla coppia era stata promessa una paga di 100 corone al giorno, mai arrivata. Il tribunale distrettuale scrive nella sentenza che è fuori di dubbio che il proprietario del bar abbia sfruttato la difficile situazione della coppia, che era appena arrivata in Svezia, e che li abbia sfruttati nel lavoro in condizioni irragionevoli. La condanna, tuttavia, è stata minima, 8 mesi di carcere e un risarcimento danni di 120.000 corone svedesi, poco più di 11.000 euro. E questo è tutto per quello che riguarda il web notiziario di oggi. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani con Barbara Schiavulli, vi lascio con i programmi di Radio Città Fujiko per chi ci ascolta da Bologna, con il resto delle nostre rubriche per chi ci ascolta online. Un augurio di una buona giornata, a risentirci. set free, and I've been bound. Let me tell you Pinzimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Buongiorno cari radioascoltatori e benvenuti al Pinzimonio di oggi. Oggi è la giornata internazionale dei diritti umani e per l'anniversario, il 71esimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, ho deciso oggi di leggervene alcuni articoli, a cui è opportuno dare una rinfrescata. Innanzitutto, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è un documento sui diritti della persona che è stato adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 48 a Parigi. Però oggi ho deciso di fare una selezione degli articoli di questo documento secondo me più significativi, non che gli altri lo siano di meno, ma gli articoli che cercherò di portarvi oggi possono aiutarci a riflettere un po' sulla situazione odierna rispetto a quanto è stato scritto ormai appunto 71 anni fa. Cominciamo quindi dall'articolo 1. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Articolo 2. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di qualsiasi altra condizione. Articolo 3. Ogni individuo ha il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Articolo 4. Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù. La servitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. Apro una piccola parentesi per ricordare che in Italia, al giorno d'oggi purtroppo, ancora non è stata curata la piaga del caporalato, nuova frontiera di schiavitù moderna. Continuiamo con l'articolo 5. Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumani o degradanti. Apro anche qui una piccola parentesi per ricordare che la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge che introduce la tortura nell'ordinamento italiano solo nel 2017 con l'articolo 613 bis del Codice Penale. Quindi un po' in ritardo rispetto alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo del 48. Articolo 7. Tutti sono uguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una uguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una uguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente dichiarazione, come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione. Articolo 9. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato. Articolo 12. Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni. Articolo 13. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. Comma 2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese. E l'articolo 14 dice che ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. Articolo 15. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza e nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza. Articolo 18. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti. Articolo 19. Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. Andiamo verso la conclusione con l'articolo 23. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione. Ogni individuo senza discriminazione ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente, che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. Concludiamo con l'articolo 29, che dice che ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. Questo ha voluto essere solo un piccolo excursus di quello che dicono gli articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. E riguardo a questi temi, che oggi diamo per lo più per scontati, dobbiamo ricordare che molte persone hanno lottato e hanno dato la propria vita perché questa carta potesse venire scritta ed accettata da una moltitudine di paesi nel mondo. E grazie a loro godiamo dei diritti che garantiscono la nostra libertà e che ogni giorno rischiano di venirci sottratti, per cui è necessario ancora al giorno d'oggi tenere molto alta l'attenzione su questi temi e proteggere da ogni attacco e con ogni mezzo questi diritti che sono stati guadagnati con la lotta che noi abbiamo ereditato e sui quali si basano i principi che garantiscono le nostre libertà. Il Pinsimonio radiofonico vi aspetta domani sempre alle 9:15. Buon proseguimento con la rassegna stampa. Ascolta il Pinsimonio su Radio Città Fujiko oppure in podcast sulla pagina Facebook Il Pinsimonio radiofonico. Il Pinsimonio è curato e condotto da Maurizio Casertano. Grazie e buona giornata. Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. 9:29 minuti di questo 10 dicembre, martedì. Buongiorno a tutti voi, sta ascolto di Radio Zanardi. Siamo dunque arrivati alla rassegna stampa, che apriamo con la pagina internazionale vista dall'ottica delle donne, perché è qualche giorno che c'è una gran meraviglia sui nostri giornali per la Finlandia. Oggi è il Corriere della Sera che con Irene Soave ci racconta Finlandia, la squadra rosa della Premier più giovane, ero figlia di invisibili. Si parla di Sanna Marin, 34 anni, ed una bimba di 2, è cresciuta con due madri. Quindi immaginate voi in Italia quante chance avrebbe questa ragazza di 34 anni, figlia di due omosessuali, con bimba a carico, a diventare Premier. Poi la cosa naturalmente che fa specie è che anche tutte le forze politiche che la sostengono sono capeggiate da segretarie donne. E allora la nomina dovrebbe, secondo il Corriere, risollevare i socialdemocratici al minimo storico del 13%. Ma di fronte a questa novità vediamo come risponde la Finlandia anche nella destra. E pensiamo ai nostri Salvini, ai nostri Pillon o ai nostri Meloni. Il segretario del partito di opposizione, il conservatore Asmo Maslka, l'ha ribattezzata su Twitter il governo delle Spice Girl e ha ottenuto 21.000 mi piace. E questa è stata più o meno la critica più feroce di cui si ha notizia. Molti di più, con qualità sbalorditiva, ha detto la presidente del nuovo governo finlandese insediatosi ieri, sono stati gli auguri e articoli sui media di tutto il mondo. La socialdemocratica Sanna Mirella Marin, nata a novembre dell'85, mamma di una bimba che avrà 2 anni a gennaio e figlia di una coppia di donne omosessuali, giurerà la settimana prossima come premier della Finlandia, già ministro dei trasporti. Oggi è il capo di governo più giovane del mondo e della storia del suo paese. Lei dice: non ho mai considerato rilevante il mio genere o la mia età, mentre lo sono le ragioni per cui sono entrata in politica, che mi sono valse la fiducia degli elettori, quindi un atteggiamento assolutamente lineare, una fiducia che oggi insieme al mio partito dobbiamo ricostruire. Ecco, questa è la meraviglia dei giornali, che dicono allora la Finlandia è il paese delle donne. Se rovesciamo il ragionamento, uscendo dalla meraviglia, l'Italia ha un premier maschio e tutti i maschi i leader della coalizione che lo sostengono, quindi l'Italia è il paese dei maschi. Poco, con lo stesso ragionamento direi lineare. E non è che sia esattamente generoso il Corriere, perché della serie l'erba delle vicine è sempre più nera, dice: nel moderno Giappone le università restano dominio maschile, perché non è solo patrimonio del Giappone questa cosa. Ma continuando sulle le donne sotto l'attenzione dei giornali, andiamo a Madrid, alla conferenza climatica, che tutti guardano cosa fa Greta Thunberg. Greta si schiera con gli indigeni, io una privilegiata, ascoltate loro. Noi siamo privilegiate, non sono le nostre storie che devono essere ascoltate, ma quelle del sud del mondo, della comunità indigena. Greta Thunberg ha aperto la conferenza stampa organizzata dal Fridays for Future durante la COP25 in corso a Madrid, ricordando che sono le comunità indigene che più risentono dei cambiamenti climatici, come hanno raccontato nelle loro testimonianze molte giovani. Anche qui sono donne, donne del nord, donne del sud, in questo girotondo di solidarietà. Ma sempre della caccia allora di testimonial donne da fare un po' notizia, più folklore che altro, perché se andiamo alla pagina del Fatto Quotidiano, il ritratto è: dopo Greta arriva Beata, la lotta diventa femminista. L'altra Thunberg è la sorella minore dell'ambientalista, canta come sua madre e spopola sui social, aspira a un mondo uguale per gli uomini e donne con l'aiuto di papà. Questo è l'articolo che ci dà Alessia Girossi, che poi, si spertica in molte righe per dire che poi è malata più di sua sorella, perché naturalmente bisogna dire che sono malate queste donne. Ma c'è chi ci prova, maldestramente, nella pagina delle elezioni emiliano-romagnole. Discriminata perché donna, la Borgonzoni accusa la sinistra. Ma il governatore non ci sta, Bonaccini. Da me non ha mai ricevuto attacchi personali. E dice, Bonaccini ricorda, e credo che non possa essere smentito in questo, cara Lucia, non mi considero migliore di te, ma diverso da te, a partire dalla ricetta per governare la nostra bellissima regione. La critica che ti rivolti è quella di conoscere poco il nostro territorio. Quindi devo dire che risposto con una certa nonchalance e abilità Bonaccini. La signora Borgonzoni naturalmente sarà anche donna, ma sicuramente, ma è a capo di un schieramento che è quello di Pilon, quella del convegno di Verona, è quello dove appunto si converge anche Libero. E qui torna all'articolo di Libero ieri su Anil De Jotti. prima donna a ricoprire, ricordo il Corriere di Bologna, sto leggendo, il ruolo di Presidente della Camera nella storia della Repubblica Italiana. Veniva definita Nilde Iotti in questo articolo di fondo del Libero un'emiliana simpatica e prosperosa, grande in cucina e grande a letto, il massimo che in Emilia si chiede ad una donna. Ecco, questa è la concezione al femminile del centrodestra. E non possiamo poi pretendere che ci sia un percorso in Italia che vada al contenuto, indipendentemente al genere, indipendentemente se madre oppure figlia di una coppia omogenitoriale. Quando si continua a ragionare così in maniera conservatrice, ovviamente quello che troviamo è purtroppo tristemente protagonista. Restiamo ai contenuti, però, che sono importanti per le donne al potere in Europa, certo, come per la sorella di Thunberg, ma sarebbe interessante andare oltre, vedere anche i programmi di questa nuova premier, vedere quello che propone, vedere come può essere un'alternativa, vedere un cambiamento, oltre che giovane, carina, 34enne, figlia di due mamme. Sì, certo, giusto sottolineare per motivi di cronaca tutto ciò, come è altrettanto giusto vedere come si affida all'ecologia, come ha dei programmi progressisti, come è vicina alle classi deboli. Ecco, fermarsi un po' anche su tutto ciò che è un approfondimento politico non sarebbe male. Dalla stampa ai primi piani di questa giovane leader, con il segreto di Sanna: non penso mai alla mia età o al mio genere. Oh, finalmente penso alle ragioni per le quali sono entrate in politica e per le quali abbiamo vinto il sostegno elettorale. Sono state queste le prime parole di Sanna Marin e io le condivido appieno. Siamo sulla stampa in prima pagina, ma poi l'approfondimento ci riporta a pagina 9. Chissà se in futuro ci sarà una visione che va oltre al genere, che va oltre a un obbligo di quote, che va oltre alla differenziazione sempre e comunque, no? La bimba invisibile è già diventato il titolo tornato alla realtà di cronaca più così, più ma guarda un po' questa simpatica bimba carina, già come ha fatto carriera. No, è qualcosa che è di più, è qualcosa che è più importante, socialdemocratica, dell'ala più progressista del partito, fino a ieri il ministro dei trasporti, e dopo una carriera importante che l'ha portata dal consiglio comunale di Tampere, città della Finlandia, fino ai vertici dell'SDP. È laureata in amministrazione pubblica, è deputata giovanissima a 27 anni e poi si prosegue: non ho mai pensato alla mia età, al mio genere, penso ai motivi per cui sono entrata in politica. Poi ovviamente c'è la rassegna di giovane donne in carriera politicamente parlando. Si va lì: Anderson, capo dell'alleanza di sinistra, Katri Kulmuni, 32 anni, leader del partito di centro, Maria Oikialo, 34 anni, leader dei Verdi. Questo per quanto riguarda la Scandinavia. Certo, come dice Balpredo, in Italia troviamo ben altro. L'Italia resta degli uomini, ma che voglio dire, se con il voto, se con determinati percorsi politici, andare oltre al genere, evitare di sottolineare sempre e comunque se uomini, donne, se giovani, carini, se mettono la felpa, se mangiano il gelato, sarebbe magari qualcosa di più interessante, no? L'Italia invece no. Gender gap sul lavoro, in politica il potere femminile è solo uno slogan. Siamo tagliati fuori da una rivoluzione culturale e di recente si assiste a un'ulteriore retromarcia, appunto, che preoccupa finché continuiamo a vedere in maniera strabica tutto ciò. L'Europa è femmina, l'Italia è maschio. Una grossolana semplificazione, prosegue Repubblica pagina 7. No, un dato di fatto imbarazzante che ci qualifica come il paese con la classe politica più retrograda dell'Unione. Dal Manifesto concludo questa prima parte di lettura. Finlandia, scelta la premier per la vera svolta a sinistra. Ecco, ad esempio, poterne parlare in questo modo è già più attinente a quello che interessa. Siamo a pagina 10, nella pagina degli esteri. 34 anni, guiderà un governo a maggioranza femminile. Le elezioni del 14 aprile scorso avevano consegnato al centro-sinistra una vittoria sul filo di lana, evitando per 10.000 voti il sorpasso sui socialdemocratici da parte dai Presumalset, veri finlandesi. Ovviamente non lascia adito a interpretazioni diverse, veri finlandesi. È un partito di destra sovranista. Invece, come sicuro vincitore, la tenuta dell'SPD e buoni risultati dell'altra alleanza e con i Verdi, che però non sono bastati a formare una maggioranza rosso-verde. In coalizione sono entrati anche partiti di centro e altre formazioni che hanno appoggiato la premier Sanna Marin. Sì, anche sulle 24 ore Finlandia, la prima delle quattro donne alla guida del paese, svolta a sinistra, attiviste per i diritti delle donne ed ambientaliste, che mi sembra già un programma di un certo spessore. Ma devo, siamo sinceri, non è solo l'Italia, è l'Europa del Sud, perché non è che la Spagna faccia meglio, non è che la Grecia faccia meglio. Gli altri paesi, destra o sinistra, non c'è questo donne verboten, questo blu chiuso, perché c'è la Merkel, tanta la Margaret Thatcher, la May, c'è tante altre, e quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta. In Italia invece questo imbarazzo non ce l'abbiamo. Allora andiamo in Gran Bretagna. Sondaggi mercati prevedono la vittoria netta dei Tory secondo il voto di giovedì prossimo segnalato dal Sole 24 Ore. La sterlina tocca la corsa e tocca il record sull'euro del maggio 2017. Il Labour di Corbyn non riesce a rimontare ed è sotto i 10 punti. Questo, naturalmente, anche qua bisogna vedere i vari sondaggi. Questi 10 punti è la famosa media dei vari sondaggi, perché alcuni danno Boris Johnson in testa di 14 punti, gli altri invece lo vedono con 8 punti di vantaggio, addirittura 6, ma nella media è 10 punti. Quindi Boris Johnson dovrebbe essere in qualche modo sicuro, però non lo è. Perché la Johnson però, dice ancora sulle 24 ore, non si tiene al sicuro in memoria della delusione subita dalla madre Theresa May nel 2017, quando il suo vantaggio nei sondaggi era evaporato e i risultati l'avevano privata della maggioranza in Parlamento. La promessa di una Brexit rapida e indolore forse non basta. E qui, ancora una volta, d'accordo o non d'accordo, dobbiamo ammettere che la vulgata in Italia, che la gente in Inghilterra ha sbagliato per errore, dimenticanza o distrazione, ha sbagliato a votare Brexit, non è vero, perché chi cavalca la Brexit ha dei punti in più di chi non la cavalca, quindi evidentemente da quelle parti torto ragione il sentimento è molto diffuso. Comunque, per conquistare i voti in questi giorni ultimi di campagna elettorale, il Premier si è quindi tornato a cavalcare il tema dell'immigrazione promettendo una rigida stretta. Quindi gli immigrati, se non ci fossero, dovrebbero inventarli qui del centrodestra, perché sono loro, la benzina della loro campagna elettorale. Ma secondo il Fatto Quotidiano, Labour, i Tory, la guerra e seggi marginal cosiddetti. Elezioni meno 2, conservatori in vantaggio ma fa la differenza, potrebbero essere 36 collegi ancora in bilico. Lì c'è un maggioritario secco, chi vince vince, chi perde tutto. Quindi con questa logica assurda, che non ha nulla a che fare con la democrazia, fino a prova contraria, tutto può accadere, anche per un voto di differenza. La previsione Best for Britain, lobby anti-Brexit, ritiene che 41.000 voti basteranno per una vittoria a sorpresa. Questo, i migliori per la Britannia, già non mi sembra un altro, non è molto diverso, i finlandesi come era, i veri finlandesi. Detto questo, andiamo allora al doping. Russia fuori da Tokyo 2020 e dai mondiali di calcio in Qatar. Evidentemente notizia che va ben oltre i dati sportivi, che dimostra appunto la contesa che si ha nello sport, nel doping, ma anche nella politica e nelle ambasciate. Per 4 anni non potrà gareggiare con la bandiera nelle grandi competizioni. Mosca parla di isteria contro di noi, era stata già avvisata precedentemente. Secondo la commissione cosiddetta indipendente del CONI, ha continuato in questa pratica del doping. E allora a questo punto, dal nuotatore Morozov al tennista Medvedev, si gareggeranno niente ori per la patria. Vanno a farla a titolo di livello assolutamente personale, anche se immagino che poi si salgono sul podio, canteranno l'inno dell'attuale Russia. E dalla invece dalla pagina del giornale si torna sul vecchio tema delle famose pesiste dell'est, che erano corpulente e ben poco si discostando loro colleghi maschi. Dalle valchirie dell'est a Big Ben, quel vizio di barare per vincere, Mosca paga per tutti proprio, perché si dopano tutti, questo è, solo che sono quelli che si dopano meglio con maggiori capacità tecnologiche, quelli che hanno maggiori amici dentro il CONI. Comunque il più clamoroso fu Johnson, ma la Stasi creava campioni in provetta, i cinesi con il brodo dopato. Sì, volevo arrivare appunto a questo, e non si risponde con un'accusa o un'altra accusa, e ovviamente quella tremenda realtà di doping che c'è stata nei paesi del blocco est l'abbiamo vista chiaramente, muscoli gonfiati riporta al manifesto, ma non è che poi da amici del CIO vicino a tutti i comitati olimpici con diverse attinenze a questo doping poi siano vergini davanti a tutto ciò, tutt'altro, ma è una guerra fredda, come dice il manifesto, che vede protagonista lo sport, ma che ha poi altri riferimenti. Nel giorno di delicato vertice di Parigi sul Donbass, la Russia viene espulsa per casi di doping dalle Olimpiadi di Tokyo del 2020, dai mondiali di calcio in Qatar e dai giochi invernali di Pechino 2022. Mosca si difende dicendo: è un'isteria antirussa cronica. È la notizia principale del Manifesto in prima pagina, con la foto di un Putin contrariato. Doping, la Russia ci ricasca, bandita dallo sport mondiale, hanno falsificato dati, così la Stampa liquida l'argomento. Allo stesso modo a fondo pagina Repubblica: Russia fuori per 4 anni, addio giochi, lo zar Putin cade sul doping. Siamo partiti dall'estero, quindi dall'estero proseguiamo, lo facciamo dalle pagine del Manifesto. Dopo Brexit, dopo caso doping, vediamo dalla Russia agli Stati Uniti d'America, impeachment di Trump, seduta di fuoco e quasi rissa, il rapporto del Dipartimento di Giustizia legittima l'indagine FBI sulle origini della Russia Gate. I democratici dagli Stati Uniti d'America, pressioni su Kiev perché indagasse su Biden, i repubblicani dicono sono solo menzogne, e l'embargo di Trump per quanto riguarda la sanità a Cuba prosegue, minaccia un nuovo periodo especial. Questo porta gli Stati Uniti d'America a essere tentacolari in ogni parte del mondo, fino al Medio Oriente, e a pagina 12 del Manifesto: che ci facciamo qui? Tutte le bugie degli Stati Uniti d'America sulla guerra, svelati i documenti riservati sul conflitto in Afghanistan, storia di un fallimento totale. A proposito di dati falsificati, nelle carte errori, e a Doha torna in scena l'intesa Trump-Talebani. Tutte frottole. Per quasi 20 anni i cittadini americani, e non solo loro, si sono sentiti raccontare balle dai più alti funzionari statunitensi sull'andamento della guerra in Afghanistan. Facciamo progressi, netto miglioramento, questo è l'anno chiave, erano le dichiarazioni ufficiali. Beh, non erano altro che bugie, vere e proprie manipolazioni della realtà, una realtà di segno opposto rispetto a quello ufficiale, conosciuta poi a tutti i livelli. E su Russian Doping interviene anche Vauro, che presenta un corpo di quelli bombati, no, da culturista, che fa tutti i muscoli in tensione, col volto di Salvini, perché è dopato dalla Russia, secondo le indagini che vengono fuori, e alcuni misteri che vengono segnalati poi all'interno. Turbina ai russi, quindi indagini degli USA su Caparini, leghista. Leghista dice: non sono io, è un altro, è un'omonimia. Vedremo se di omonimia si tratta. Ma così entriamo nella pagina del governo italiano. E allora, governo, serve il rilancio. Questo è quello della sera, che apre con l'intervista a Conte. Non starò appeso, ecco l'agenda per il 2023. Il PD chiede la verifica. Renzi dice gna gna gna gna, questo più o meno. E 5 Stelle sembra adeguarsi a questa verifica. Taglio delle tasse, legge elettorale, guardo al sistema tedesco, quindi proporzionale con sbarramento, questo è quello che arriva dal Corriere. Dovremmo tagliare ancora più di le tasse per la legge elettorale, guardo al sistema tedesco, dice anche all'interno. Fico, la legislatura, dice il Presidente della Camera, deve durare, poi anche Di Maio dice sì al Premier. Il leader dei 5 Stelle, la condivisione di dover stilare una lista di priorità, come chiedo dei 5 Stelle, dimostra che ci sono le basi per fare ancora meglio. Questo è il nome, il Green New Deal, questa via verde, vedremo se dalle parole si passerà ai fatti. Il Sole 24 Ore, manovra, plastic tax dimezzata, quindi la Green New Deal deve un po' aspettare, almeno deve essere dimezzata. Salta la stretta sulle spese sanitarie. I prodotti in Tetra Pak saranno esclusi dalla plastic tax, lo prevede il subemendamento della maggioranza sulla manovra. La nuova imposta è fissata a 0,50 centesimi al chilo. Novità sui rimborsi sanitari: tutte le spese sanitarie saranno interamente detraibili e lo sconto non si ridurrà in base al reddito, quindi c'è un taglio delle tasse su questo versante. Aumentano le accise sui carburanti, in questo senso c'è un aumento. E allora vediamo tra aumenti esentasse. Libero, vediamo la destra, è arrabbiato. Immigrati esentasse, sparito il balzello sui pagamenti degli stranieri. Lo Stato si è scordato di applicare il prelievo dell'articolo dell'1,5 sulle miliardarie rimesse nei paesi d'origine. Miliardarie, perché sono, non è che sia uno che faccia miliardarie, sono in tanti, quindi. Ma detto questo, da parte degli extracomunitari italiani invece costretti a versare ogni tributo, dice Libero, no? Che come sempre prima gli italiani, gli ultimi ci a versare i contributi. Allora il Messaggero, perché facciamo un volo d'uccello alle varie cose che i giornali segnano appunto in ordine sparso. A Roma, il Messaggero: contratto a rate per gli statali, subito 200 milioni per il nuovo patto per trovare le risorse mancanti col DEF di aprile. Manovra, allarme tempi, Mattarella, evasione indecente, salta il tetto delle infiltrazioni sanitarie. Su Mattarella interviene anche l'Avvenire di questa mattina, che dice appunto indecenti evasioni. Non è una canzone di Battisti e Mogol, ma è la truffa di non pagare le tasse, che appena qualcuno parla di far pagare le tasse, che so, la Confindustria, i grandi gruppi che superano i 100.000 euro di evasione, tutti gli altri dicono no, questo è una concezione repressiva dello Stato sociale. Detto quando si parla di ricchi. Ma invece andiamo al Mattino con di Napoli. Conte chiede la verifica, ma è scontro sulla giustizia. Il Premier: a gennaio ripartiamo, intercettazioni, tensioni tra 5 Stelle e PD. Mattarella, appunto, anche qui vi ha ricordato che quando parla della evasione indecente. Anche il Gazzettino del Nord-Est dice che Conte vuole la verifica. Autò del Premier: il paese chiede chiarezza. Dice di fatto così non si può andare avanti. Mentre la notizia è più ottimista, giornale 5 Stelle Online. Per Salvini si mette male, dopo la manovra un patto che blinda il governo Conte fino al 2023. Governo manifesto, verifica a gennaio. A proposito di 2023, Conte dice sì, parte in ruba bandiera, il Premier fa sua la proposta di Bettini, roadmap fino a quella data. Di Maio conferma, l'avremmo chiesto noi, e Italia Viva dice ok, ma giù le tasse. Argomento delicato, Mattarella, cambiamo pagina, pagina 5, evasione fiscale indecente, si sfrutta chi paga e non solo, poi si va a agire sulle pensioni, sulla sanità e potrei andare avanti. Il governo punta a recuperare 13 miliardi di euro in 3 anni, 3,2 nel 2020. Indecente, così ha definito l'evasione fiscale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, rispondendo alla domanda di uno studente ieri al Quirinale. È una cosa così, perché i servizi comuni, la vita comune, è regolata dalle spese pubbliche. Se io mi sottraggo al mio dovere di contribuire, sto sfruttando quello che gli altri pagano con le tasse che loro stessi pagano. E questo è quanto dal Manifesto per la Politica. Si prosegue per i percorsi che già abbiamo cominciato in questa parte di rassegna, dalla Stampa pagina 2 a pagina 3, il piano Gualtieri, via gli investimenti per l'ambiente, dalle regole europee, Gentiloni chiede la riforma del patto di stabilità, ma sarà difficile un accordo tra il nord e il sud, dalle tasse ai movimenti legati alle riforme, all'ecologia, all'attenzione per l'ambiente, azzerare le emissioni entro il 2050 e subito un fondo da 35 miliardi, ecco il sogno verde, gli obiettivi della Commissione per ridurre l'inquinamento e favorire la transizione energetica. A pagina 4 della Stampa si parla anche del famoso MES, risoluzione quasi approvata, ma il PD teme i grillini filo Lega. E ce ne sono. Fondo Salva Stati preoccupa la tenuta del Senato sul testo che impegnerà Conte. Da domani il Consiglio europeo decisivo. E nella stessa pagina che riporta le affermazioni di Mattarella, evasione indecente, sfruttato chi paga. L'uscita di Conte con la compagna e all'evento appunto di beneficenza che si è tenuto ieri a Napoli con i contenuti a proposito del MES di cui vi ho parlato in precedenza. Concludiamo, anzi prendiamo anche Repubblica, che è l'anatema di Mattarella, lo mette in prima pagina e poi prosegue con il patto sociale proposto da Landini e la parola Zingaretti. A gennaio il governo riparta da lì, il Premier apre una nuova agenda per il governo, parla di cronoprogramma per le riforme. Proseguiamo con i pareri dei politici, i renziani si smarcano, solo slogan. Ilva e Alitalia devono essere salvate con fondi pubblici, punto di domanda. Ilva, PM d'accordo sulla proroga per l'alto forno. Operai oggi in piazza a Roma per il lavoro, intanto riportato anche dal Manifesto. Oggi sciopero a Roma, lo Stato entrerà nei settori strategici. Si chiude con la manovra come fosse un assalto alla diligenza, manovra, i tempi sono strozzati, allarme di Casellati e Fico, benzina e rischio rincari, presidenti di Camera e Senato, Parlamento centrale, intollerabili ritardi del governo, aumentano le clausole di salvaguardia su carburanti e le tasse sui giochi. Bloccata l'IVA, stop al super ticket, la manovra di bilancio a ras finale, dopo gli emendamenti concordati dal vertice di maggioranza di 4 giorni fa si comincia a votare con l'obiettivo di arrivare nell'aula al Senato di venerdì. Tagli alla plastic tax, alla sugar tax, ai rinvii per i tir, prevista una stangata sulle vincite di Gratta e Vinci e Super Enalotto, che già di per loro sono una tassa. C'è attesa per la verifica delle sardine a Piazza San Giovanni sabato, manifestazione che più che nazionale si sta rivelando un'azione per Roma e Lombardia, e sardine che fino adesso stanno con foto davvero sorprendenti riempiendo tutte le piazze grandi e piccole d'Italia. L'ultima ieri sera a Ferrara, tantissime sardine anti Salvini. Ferrara sappiamo che è la città che nelle ultime elezioni comunali è passata sotto l'egida della Lega col sindaco Fabbri. C'è questa polemica che arriva da Torino che fa infuriare Contropiano, giornale comunista che sicuramente non è mai stato gentile con le sardine. Sardine in arancione, bella ciao, perché sardine madamine sitava, Torino si prova l'innesto. E dice che appunto le madamine, quelle del sitave, sono in combutta con le sardine, e dice tra le altre cose: ricordate le madamine sitave, ma quali imprenditrici che avevano convocato una mozione in appoggio del più inutile grande opera inutile per contrastare il movimento notave, eccetera eccetera eccetera. Quindi questi non sanno che farsene delle belle parole della cura del linguaggio, non sono abituati a girare intorno ai problemi, ai programmi e le cose da fare. Quindi dice, le sardine hanno un programma, beh, c'è chi ce l'ha per loro. Devo dire che si tranquillizzi il Contropiano, perché leggo dal Corriere: sardine, litatorine con le madamine sitav, venite senza simboli. Quindi questa logica di portare le bandiere arancioni, di arancionizzare la sardina, non sembra non avere funzionato, almeno a stare a Fabrizio Caccia. La metamorfosi da madamine a sardine non sarà ammessa, il nostro mare non ha colore, gentili ma ferme. Così hanno risposto le sardine di Torino e a Giovanna Giordano, una delle madamine della storica marcia sitava del 10 novembre di 2018, rifiutando perciò l'invito della signora rivolta ai suoi follower su Facebook a portare qualcosa d'arancione come all'epoca della marcia per il raduno di stasera in Piazza Castello. Questo è anche perché le sardine hanno un notevole successo impensato fino a qualche settimana fa, e allora tutti spingono tra le parti. Per esempio ieri, con maldestro sondaggio, La 7 ha fatto questa domanda: quanto vi riconoscete nelle sardine, interamente, parzialmente? Allora da qui è tirato fuori che il 39% è pronto a un partito delle sardine. Questo. Ora chi va in piazza con le sardine magari vota PD, vota sì, non vota niente, e se gli chiede vuole sardine un partito dice di no. Ti identifichi le sardine e battaglia della democrazia? Dici di sì. Questo. Però questo è perché per riportare tutto nel solco delle cose prevedibili e qualche facilmente giocabili. Questo succede sia a destra, a sinistra che al centro, perché forse è un Pavlov della politica antropologica, avere a che fare solo con le polemiche di sempre, non con realtà. Certo che l'intervista che dà la sardina Romano Gongo al Fatto Quotidiano non aiuta a far chiarezza, perché dice: la nostra piazza aperta a tutti, pure a Casa Pound. Ora, chi si batte per la democrazia non può aprirsi a Casa Pound, è un ossimoro. Anche se lui in realtà dice, alla domanda, perché il titolo poi è ancora una volta forte il ragionamento, comunque sbagliato: negli ultimi giorni vi è arrivata l'endorsement di Mario Monti e Francesca Pascale, non è un caso di mettere dei paletti? Quelli li metteremo se e quando ci daremo un'identità politica, per ora è ammesso chiunque, pure uno di Casa Pound va benissimo, dice uno di Casa Pound, però questo non cambia di tanto il ragionamento. Allora lui si ricorda che è quello che vuol fondare un movimento Cara Italia, negli ultimi mesi ha ingaggiato diversi duelli contro Matteo Salvini, come quando annunciò di aver fatto rimuovere vari post leghisti sui social per istigazione all'odio. Oggi è plenipotenziario delle sardine di Roma, che su Facebook conta quasi 140.000 iscritti. Allora alla domanda qual è il futuro delle sardine, è presto per dirlo, non c'è bisogno di saperlo ora, anche perché è nato così da quattro persone qualche settimana fa. Certo è che invece ci sono altre, non sono solo le sardine. Altro che sardine, nuovi roghi raccontati sempre dal Fatto Quotidiano da Massimo Novelli. Altro che sardine, rosari in piazza per Salvini. Movimento pro capitano. Angela Ciconti invita a pregare per lui nei luoghi pubblici. Le bambine stuprate da decine di immigrati e poi uccise sono un sacrificio politicamente corretto. Questo è come si presenta questa signora Angela Ciconte. Questo è quanto. E anche Sallusti, a 8:30, nelle tante talk show dedicate alle sardine, ha chiesto alle sardine di rientrare nei ranghi e comportarsi da partito politico. Io mi sento preso in giro, perché cosa vuol dire ci riempiamo Piazza San Giovanni, poi ci vediamo ma non facciamo politica? Riempire Piazza San Giovanni è già quello fare politica. E allora voi non volete dire da che parte state, perché non so se non avete ancora deciso da che parte stare, però Sicuramente non stanno con la destra di Salvini e della Meloni, scusami Alessandro. No, ma per dire che fare politica è l'inclusione e vogliamoci bene, l'aveva già scritto gli evangelisti 2000 anni fa, nei Vangeli appunto, tra l'altro nei Vangeli non c'è scritto che bisogna ascoltare anche quelli non di sinistra, cioè che non è che quelli non di sinistra non vanno ascoltati, nei Vangeli c'è questa aggiunta. C'è scritta tanta roba, ma dopodiché a me sembrano come Greta, mi sembrano come Greta che dice dobbiamo salvare il mondo, benissimo, come facciamo? Andiamo in catamarano dall'America all'Europa, ma non è una risposta, è un simbolo, non è una non risposta sottovaluterei l'importanza perché dei noi non simboli. Possiamo andare in catamarano. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere. È il contenuto di Sallusti e noi non possiamo andare in catamarano. Conclude così la piccola parte che avete ascoltato tra la rassegna stampa all'interno di Radio Zanardi. In primo piano anticipo qualcosa sull'Emilia per quanto riguarda le sardine e l'intervista a Stefano Bonaccini a pagina 9 di Repubblica. Scusate, l'Emilia si è risvegliata anche grazie alle sardine e prosegue con un'intervista. Quei ragazzi stanno riempendo le piazze senza un linguaggio di odio, ma il malessere nel paese è profondo. Si prosegue con dei nomi, no? A proposito della Gabanelli, Di Maio vuole candidare Gabanelli, il rispetto Milena, non ho mai cercato di tirarla per la giacca. E poi si prosegue per le donne in giunta, no? Borgonzoni però intanto l'accusa di sessismo, perché lei dice che è muta rispetto a Salvini, mai attaccato personalmente Lucia, il fatto che Salvini sia sul territorio più di lei è una scelta loro, beh, è innegabile, non so se sia sessismo, ma non dipende da me. Allora, vittima di sessismo, Giorgia Meloni, pagina 8 di Repubblica. Che fatica essere accettata come leader dai sovranisti. Per diventare capo mi sono fatta un mazzo, così si esprime parte nell'articolo che troviamo di Concita Sannino. Mi guardavano dall'alto in basso, ma mi hanno rispettato più degli uomini di sinistra. Questo per dire, ecco, attenzione perché tra le righe questo è tremendo, cioè vale più una donna di destra che un uomo di sinistra. A proposito quello che abbiamo citato in partenza, no? Di genere, di contenuti, ecco, questo è sovranismo, punto fine della storia. Se dovesse spiegare in una scuola di politica che cosa serve per farcela nel suo ambiente, userei proprio l'immagine dello studente, perché rischi di sentirti sotto esame eternamente, in condizioni ingiuste, fuori luogo ovviamente, ma l'immagine va letta anche in positivo, perché la vera risposta non è fregartene, la vera reazione deve essere impegnarti di più, pensare di più, la cosa che diceva la fortissima Charlotte Whitton, primo sindaco donna di una capitale, anno 1951 a Ottawa. Diceva: una donna deve fare ogni cosa due volte meglio di un uomo per essere considerata brava la metà. E aggiungeva: per fortuna non è difficile, risate delle sue un po' più dolce di quella delle imitatrici invece. Si continua con le divisioni e con quello che si deve e non si deve per essere diversi. Siamo sinceri fino in fondo, lei deve aver scontato diffidenza al suo interno, almeno all'inizio. Sono la prima a riconoscere e dire che le mie sfide me le ero scelte tutte di un certo livello e mai nessuno mi ha regalato nulla. Non mi sono mai sentita discriminata, però sono una donna leader. Ho cominciato a 15 anni a fare politica, mi sono fatta, si può dire, un mazzo così. A 27 anni ero presidente di Azione Giovani, ho fatto un lavoro immane, l'aggravante di essere accettata donna e come capo. Questo è il sovranismo di Giorgia Meloni. Andiamo da tutt'altra parte invece per il Manifesto e per quello che è stato riportato ieri, ma che il Manifesto, non essendo in edicola, riporta oggi, e direi di trovare l'approfondimento a pagina 9. Donne davanti alla fila degli ufficiali che si schieravano in un gruppo, uno di queste indicava chi doveva andare da una parte e chi dall'altra, e da questo da questa divisione c'era lo sterminio. Ascoltando Piero Terracina, l'ultimo dei sopravvissuti recentemente scomparso, un inedito dalla testimonianza disponibile dall'archivio sonoro del Circolo Gianni Bosio, per più di 40 anni non ne ho mai parlato. Poi quando c'è stata la profanazione del cimitero di Carpentera in Francia, ho detto: qui non è più possibile tacere. L'omaggio di Roma e della comunità e l'approfondimento, la fotografia dello stesso Terracina. Dunque, quando sento il sesto giorno il carro sostò nella stazione di Auschwitz, la sera e tutta la mattina successiva, la mattina del settimo giorno nella partenza di Fossoli, nel primo pomeriggio il treno si mosse, entrò dentro nella stazione all'interno del campo. Avevamo sostato fuori, cioè nella stazione di Auschwitz, nella città, perché c'erano altri trasporti che erano arrivati e che dovevano essere, secondo il linguaggio dei lager, lavorati prima del nostro. Torno alle elezioni Milano-Magnoli, perché a queste si dedica anche il Fatto Quotidiano, intervistando il cantante dei Nomadi, Beppe Carletti, nella bassa che canta che vota i Nomadi, Salvini spara cazzate. Direi che ha quella tipica di linearità emiliana che lo contraddistingue un certa regione. Comunque, mentre il Carlino invece fa un giorno con Salvini. Salvini, selfie, Lambrusco, questo è il tema, e magari anche qualche peito, dai, Rutto che ci sta. Vincerò così, una giornata insieme al leader leghista, campagna porta a porta, l'obiettivo Appennino e periferie. Qui il PD ha abbandonato, effettivamente i sondaggi dicono che è molto più forte nelle campagne, nell'Appennino, che non nelle città, la Lega. L'argomento migranti non viene toccato, sa che in queste zone esiste una sensibilità sociale che non ama certe crociate. Tra una foto e l'altra con Salvini, tra un selfie e quell'altro, molti confessano di aver votato PD in passato, ma adesso è il partito delle banche. E sappiamo che appunto essersi fatto apparentemente profeta della tutela delle classi popolari è un che scopre il fianco a sinistra a Salvini. Mentre, sempre sulla territorialità, l'elemento folclorico, abbiamo il Corriere che racconta con Francesco Rosano di Casadei, il re del liscio, no? Proprio l'eccellenza della romagnità per l'espresso de romanità, romagnità, il giro di valzer di Casadei che abbandona la Lega. Matteo, sempre un amico, ma l'Emilia va bene com'è. Il re del liscio, per Bonaccini, cambiare non serve. Nostalgia d'un passato, dove la mamma mia ho lasciato. Non ti potrò scordare, casetta mia, in questa notte stellata, la mia serenata, io canto per te. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella alla casa. casolare. E da questo live dei Casadei noi rientriamo in studio e parliamo del 12 dicembre, giovedì prossimo. Ci sarà l'anniversario cinquantenario di questo inizio stragista della strategia della tensione, quelle bombe messe dai fascisti, pagate dai padroni, c'era così uno slogan allora, con tanto di servizi segreti, che più che destabilizzare, come diceva il leitmotiv di regime, stabilizzavano i partiti al potere col terrore tra la gente. E infatti la bomba di Piazza Fontana fu messa proprio per impedire lotte del 68-69, lotte studentesche 68 operai 69 di dilagare, e ottennero col terrore un riflusso del movimento. E allora nomi che diventarono celebri al tempo, quello di Valpreda per esempio, accusato ballerino omosessuale, accusato ingiustamente della strage, quello di Pinelli altrettanto ingiustamente accusato ferroviere, suicidato dal quarto piano della questura. Per questo ancora non si è detto come è morto Pinelli, perché Calabresi, per quanto era chiamato il commissario Finestra, non era in quell'aula in quel momento, quindi non è responsabile materialmente del fatto, però gli altri, Lograno e tutti gli altri che erano lì, non si è mai saputo, mai i personaggi sono morti. Poi c'è stata una catena di morti clamorose, di testimoni affogati nella loro vasca da bagno, in modi più strani, insomma una vicenda che rimane oscura, però non nella coscienza popolare, che già da allora, negli anni 70, una controinformazione mise sul banco degli imputati non già la pista rossa ma la pista nera dello Stato. Una catena di persone e musica per ricordare Pinelli, dice il Corriere della Sera con Gian Piero Rossi. Milano, l'iniziativa per l'anarchico a 50 anni dalla morte, una targa davanti alla sua casa. Fabrizio Bosso suonerà la tromba, Marco Toro è con lui prima tromba della Scala a Milano, e Cisco Belotti, ex Modena City Rambler, sarà presente, quindi sarà anche un contributo nel mondo dell'arte. Una catena musicale, un albero per ricordare Giuseppe Pinelli, a 50 anni da quel tonfo sordo nel cortile della questura che ancora rimbomba nelle coscienze del paese, che è molto vero, però forse mettere qualche nome e cognome non sarebbe sbagliato. Che la città che ha vissuto, lavorato, amato e fatto politica ricorda il ferroviere anarchico partigiano riconosciuto come 18ª vittima innocente della strage di Piazza Fontana. Una verità affermata nel 2009 dall'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, e che resterà scolpita nella targa che il sindaco di Milano Giuseppe Sala scoprirà domani davanti all'albero dedicato a Pinelli in piazzale Segesta, periferia ovest, dove Pinelli abitava. Proletario ferroviere. E allora continuiamo a dare questi trailer dell'inchiesta che nel pomeriggio alla città Fujiko, con un taglio mettendo nomi e cognomi anche, diciamo, e contestualizzando questo fatto, ci dà in questa settimana. Ve lo raccontiamo noi, L'autunno caldo, realizzato da Michele Terra e Agostino Giordano, e ospitato anche il cantante e sceneggiatore Gianfranco Manfredi. Ricordate, ma chi ha detto che non c'è? Ascoltiamo un estratto delle interviste che andrà in onda integralmente oggi pomeriggio alle 18:17, e questo appunto è la voce di Manfredi. Il 68 è stato il terminale di molte cose vissute negli anni 60, in generale poi quelli che l'hanno fatta nelle università erano i cosiddetti baby boomers, cioè la generazione di quelli nati nel dopoguerra, quindi avevamo le nostre specifiche istanze. Le prime forme di coscientizzazione politica sono state da ragazzini sul senso della guerra fredda, l'incubo nucleare eccetera, poi per la pace, contro la guerra in Vietnam eccetera, tutte cose, e il movimento dei diritti civili. Il 68 non a caso si è espresso anzitutto con formula politica molto, molto semplice, contro l'autoritarismo. L'autoritarismo c'era sui posti di lavoro, c'era nella società, c'era in famiglia, c'era in università. Era una società gerarchizzata, strutturata in modo vecchio, non corrispondeva più a quella stagione, e noi eravamo come giovani moltissimi, cioè eravamo circa quasi tre volte di più di quanto non siano oggi i giovani tra i 14 e i 24 anni. Questo faceva molto la differenza, perché avevamo anche quantitativamente un protagonismo maggiore. Erano giovani anche gli operai che sono stati protagonisti, e le operaie che sono stati protagonisti dell'autunno

l'Appennino si stira, stessa origine dei sismi, di L'Aquila e Amatrice. È una zona a rischio dove ci sono potenzialità per un terremoto di magnitudo sopra 6, ma nessuno è in grado di prevedere se e quando un evento così forte si ripeterà. Le immagini inquietanti partate a pagina 18 e pagina 19 di Repubblica. L'immagine delle faglie che si allontanano tra le coste adriatiche e quelle tirreniche. Poco fa in Albania abbiamo letto di questi terremoti, di queste scosse, sentite anche in Puglia e in Basilicata. Le faglie che si allontanano e che si muovono continuamente. Ne ha fatto le spese il Mugello di recente con tanta paura. 100 anni dopo, 4:37, la scossa più forte della sequenza è stata registrata alle 4:37 di ieri, 9 km di profondità, magnitudo 4.5. Il precedente terremoto è avvenuto nell'anno in cui ricorre il 100° anniversario del sisma, magnitudo molto più forte, che nel 1919 distrusse completamente il Mugello. Quindi vi sono dei precedenti non da trascurare. È una notizia dell'estero, che però riguarda poi tutto il mondo, perché il tema è sempre questo, cioè la terra che si muove. In questo caso lo fa con una eruzione vulcanica violentissima. Siamo esattamente dall'altra parte del mondo, siamo in Nuova Zelanda sull'isola di Wight. Il vulcano fa strage, morti e dispersi. Andiamo a pagina 10 per l'approfondimento. Ho preso La Stampa. Esplode vulcano in Nuova Zelanda, anche qui le immagini inquietanti, le eruzioni del vulcano Wakatane sull'isola di Wight in Nuova Zelanda. Una ripresa aereo del vulcano. La polizia e la marina militare stanno usando elicotteri, droni per esplorare l'isola nella speranza di trovare vivi alcuni dei dispersi. Qui i gommoni dei soccorritori stanno raggiungendo le coste, che è riuscito a trarre in salvo alcuni dei turisti che erano sull'isola al momento dell'eruzione del vulcano. Sì, e infatti anche nella stessa pagina viene messa la notizia vicina a noi: trema la terra nel Mugello, forti danni alle case e 236 sono gli sfollati. Pagina del Lavoro. Taranto marcia su Roma, dice la Gazzetta del Mezzogiorno. Parere favorevole della Procura alla proroga per l'Alto Forno 2. Entro il 12 la decisione del giudice, il Premier, lo Stato sia tra i soci. Un tema che viene ripreso anche dal a un altro giornale, sempre legato alla al Meridione, ovvero sia che parla di Meridione, ma in realtà è ligure, il secolo XIX, sia lo Stato dentro l'Ilva, ma anche la Liguria interessata dal problema del ferro e dell'acciaio, e oggi scende in piazza la protesta dei lavoratori. Poi abbiamo invece il Corriere di Milano che ci racconta un piccolo mosso per difendere Pavia. Il progetto ispirato a Venezia contro le esondazioni che colpiscono Borgo Basso. Devo dire che hanno preso un bel modello. Pavia come Venezia, anzi Borgo Ticino come il Canal Grande. Nascerà un piccolo mose con l'obiettivo di salvare lo storico quartiere che sorge lungo le rive del fiume, periodicamente sott'acqua nel corso delle piene del Po e del Ticino. Ma i residenti sono molto dubbiosi. I lavori provocheranno soltanto ulteriore disagio e uno sperpero di denaro, come il Mora, appunto, il babbo insegna. E andiamo invece a questo aspetto che incendia la prima pagina del Giornale e della Verità. Dice La Verità, siamo al giornale dell'estrema destra: marchetta di fine Giuseppi, che sarebbe Conte, danno soldi persino al PC. In manovra anche il mille proroga. Rincara la dose giornale, follia, 400.000 euro per celebrare il PCI, soldi ai compagni. Maxi finanziamento di Stato per festeggiare i 600 anni della nascita del Partito Comunista è bufera. Questo. E poi, se andiamo a vedere all'interno dell'articolo, c'è la litania contro questo finanziamento, non finisce più. La follia della sinistra, chiederci 400.000 euro per festeggiare il PCI, ma legni del PCI, del Forza Italia, ma siete matti? Non in fondo, dice l'Europa, condannato il comunismo come il fascismo. E allora dice l'articolo di Pasquale Napolitano dal Giornale: l'Unione Sovietica di Stalin non è arrivata tanto, e forse nemmeno Cuba sotto la guida di Fidel Castro, eccetera eccetera eccetera. Poi leggiamo: occhi chiusi sull'antisemista tra sinistra. Quindi ricordiamo prima l'articolo di Eva Willy sulla Segre e i campi di sterminio. Il risultato sarà un museo nazionale della resistenza. Quindi già vediamo che questi soldi al PC è il museo nazionale della resistenza, una cosa di cui il paese ha assolutamente bisogno. assoluto bisogno, questa almeno è la convinzione del redivivo ministro della cultura Dario Franceschini, che tra una reminiscenza del nonno partigiano in citazione di Liliana Segre, che ormai è trattata come la Greta Thunberg, Liliana Segre, no? sono i nemici, ha annunciato una stanziamento di 317 milioni e mezzo di euro per celebrare l'epopea dei resistenti, e lo ha fatto sulla nuova barricata della sinistra, la Milano del sindaco Sarli, insieme al quale ho portato ieri le vigliette evento con tanto di messaggio del presidente Sergio Mattarella, eccetera eccetera eccetera. Dice, come se gli americani, questa visione tra fascisti e antifascisti, no? come la liquida Giannino della Frattina del Giornale, come se per gli americani fosse ancora divisi tra sud nordisti e sudisti. Questa è la differenza, no? Effettivamente tra schiavisti e antischiavisti mi sembra anche lì una bella differenza. Ma allora, è vero, la resistenza era innervata all'80% dal Partito Comunista in clandestinità, e quindi dare soldi alla resistenza per un museo della resistenza e dare soldi ai comunisti, secondo questi giornalacci. Milano, città dei partigiani, in realtà, dice la cultura del Corriere, nasce il Museo Nazionale della Resistenza, un progetto più ampio ed altri 15 milioni. La sede sarà la nuova piramide di fronte alla Fondazione Feltrinelli. E dice anche il Fatto Quotidiano, Milano ospiterà il Museo Nazionale della Resistenza, quindi mai come adesso ci vuole questa memoria. È una struttura di cui il paese ha bisogno, abbiamo trovato il luogo adatto e aggiunto 15 milioni di euro, dice appunto Franceschini, suscitando le ire della destra italiana. Sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili. Sono Pinotti Avio, nome di battaglia, Athos. Alle belle città da te nemico, fuggi mondi su per le aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo cuori e muscoli in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire. E torniamo per concludere con una notizia dalla cronaca locale, la prendiamo da Repubblica Bologna, salgono le polveri, crescono gli incidenti, la trappola del traffico, i diesel Euro 4 fermi per 3 giorni da oggi, in casa non più di 19 gradi, pronto l'elenco delle strade più pericolose, San Donato maglia nera, questa è la notizia che racchiude le principali, si può dire, presa dalla cronaca locale di Repubblica. Le altre, come l'intervista a Bonaccini già riportata nella nostra rassegna stampa. Ciò vuol dire che siamo arrivati a conclusione, che diamo appuntamento a domani, sempre con Radio Zanardi, dalle ore 9 all'interno rassegna stampa. Per oggi è veramente tutto, lasciamo la linea ad Andrea Gozza e Susanna, attenti a noi due, e quindi vi auguriamo un buon ascolto e una buona giornata. Ciao a tutte e ciao a tutti.